2. Lungo la strada le case infittivano, la campagna lasciava il posto ai sobborghi. Philippe Lacroix ripensò all'esodo che l'aveva condotto dai boschi di Canajoharie alla capitale dell'impero, dalla valle del Mohawk a quella del Tamigi. Ripensò al fiume percorso controcorrente, ai torrenti impetuosi discesi a rotta di collo, alle cascate e ai crinali aggirati con l'imbarcazione in spalla. Ai venti che soffiavano sul lago Ontario, alle mille isole del San Lorenzo e alle tempeste gelide dell'Atlantico settentrionale, capaci di inclinare i pennoni dell'Adamant fino a lambire le onde. Eppure, gli ultimi 5 giorni, quelle 200 miglia sulle strade sconnesse tra Falmouth e Londra, erano stati più faticosi. Forse era solo questione d'abitudine. Philippe aveva poca dimestichezza coi veicoli a ruota. Forse il malessere aveva a che fare con la velocità. La diligenza si muoveva più rapida dello spirito del passeggero e quest'ultimo era costretto a inseguirla. Si strinse nella pelliccia di castoro e guardò l'amico seduto accanto a lui. Joseph Brandt era assorto, oltre il finestrino, edifici sempre più imponenti. La luce del giorno si esauriva, la città appariva un ammasso scuro pronto a inghiottirli, un animale gigantesco, il fiato sospeso nell'aria, denso e visibile. Joseph era stato a New York una volta. Ma quella era tutta un'altra cosa. Si riscosse, sforzandosi di sorridere a Philippe. «Benvenuto a Babilonia», mormorò. Ombre di grandi costruzioni incombevano nella foschia. L'aria puzzava di bruciato, liquami e spazzatura, ma Peter respirava a pieni polmoni, mentre cercava di distinguere qualcosa. Avrebbe preferito arrivare in pieno giorno. Il crepuscolo lasciava ostaggi dell'olfatto, troppo stanchi per riuscire a orientarsi e cavarsi d'impaccio. Desiderò energie fresche e luce a volontà per esplorare ogni vicolo ai lati della strada. Il convoglio di carrozze sostava, i cavalli ansimavano, i passeggeri stremati occhieggiavano dai finestrini. Qualcuno del dipartimento in testa alla colonna era entrato nell'albergo per impegnare le stanze. Peter vide un ragazzo della sua età che impugnava una lunga pertica con in cima una fiammella. Si accostava ai lampioni della strada e li accendeva uno a uno, facendo piovere luce giallastra sul selciato. Ombre scivolavano veloci sotto l'alone, emergendo dal nulla per subito svanire. Gli venne in mente una finestra affacciata su un mondo capovolto, da cui fosse possibile osservare le strane creature che lo popolavano. Non era così che aveva immaginato l'arrivo nella capitale. L'ordine era di non scendere dalle carrozze. Allungò il collo, ma non riuscì a vedere oltre la vettura successiva. Joseph si pulì le dita dal tabacco sfregandole tra loro. Il sapore dolce mitigava il puzzo di Londra. Guy Johnson diceva che l'odore acre di bruciato era dovuto al carbone e anche alla foschia. Difficile immaginare che una roccia estratta dalla terra servisse a fare il fuoco. Le carrozze attendevano da mezz'ora. L'Elmo d'Oro aveva 2 camere meno del previsto. Il personale dell'albergo stava facendo il possibile per trovare un'alternativa. «A Quebec stavamo tutti in una stanza», osservò Peter tra gli sbadigli. «Qui non si usa?» «Qui siamo ambasciatori della nazione Mohawk», gli rispose lo zio. «Gli inviati del re di Francia non accetterebbero di dividersi una stanza». Peter chiuse gli occhi e si lasciò andare sul sedile. Joseph si voltò per offrire una presa anche a Philippe, ma scoprì che era scivolato fuori dalla carrozza. Aveva bisogno di stare in piedi, dritto sulle gambe, liberarsi dalla morsa del viaggio. Fece pochi passi fino al lampione per osservarlo da vicino. Tra quello e il successivo rimaneva un tratto di buio pesto. Il mondo appariva a pezzi scollegati, intermittenza luminosa che rendeva impossibile abituarsi alla notte. Oltre la debole cascata di luce non si vedeva nulla. Dal pozzo della memoria affiorò un ricordo palescente: le dita scarne di padre Guillaume premute sul banco. «Ricorda, Philippe, non c'è luce senza tenebra. Un solo principio è il suo opposto. Per affrontare le tenebre serve la fede, perché non vedrai mai oltre il passo che stai per compiere. È la nostra prova terrena». Un rumore lo riportò al presente. Un cigolio sinistro si avvicinava. Difficile dire da dove. La nebbia spandeva il suono tutt'attorno. All'improvviso percepì una presenza sotto di sé. Trasalì. Un essere mostruoso gli toccava il ginocchio ed emetteva suoni incomprensibili. Era un uomo, o ciò che ne rimaneva. Il tronco poggiava su un piano di legno, spostato su piccole ruote grazie alla spinta delle mani. Uno strato compatto di croste e cenci incolori ricopriva il corpo. A stento si distinguevano occhi, bocca, alcune dita. Philippe provò l'istinto di scacciare l'orrore, ma rimase immobile, catturato dall'immensità di tanta bruttura. La nostra prova terrena, l'essere puzzava e parlava, diceva qualcosa, una nenia oscura, eccetto due parole, signore, eccellenza. In fondo alle dita contorte sporgeva un piattino di latta. L'essere chiedeva la carità. Philippe provò ribrezzo, repulsione, paura. Allontanò l'artiglio del mendicante e tornò alla carrozza. Joseph lo vide rientrare, pallido e corrucciato. «Cosa c'è?» «Questo posto puzza», disse Philippe. L'amico alzò le spalle. «Anche il grasso d'orso, ma senza che faresti?» Rumore di zoccoli risuonò sul selciato. La sagoma di due cavalli trainò un veicolo nel cono di luce dei lampioni. L'uomo che sedeva a cassetta si tirò in piedi. «Un attimo di attenzione, prego!» parlava, scandendo le parole per essere certo di farsi capire. «Mi chiamo Jérôme, per servirvi. Vengo dal Cigno a Due Colli, in Led Lane. Il mio padrone mi chiede di riferirvi che siamo pronti ad accogliervi come meglio possiamo. La nostra locanda non si addice a lunghe permanenze, ma siamo riusciti a liberarvi due stanze tranquille. Il personale sarà a vostra disposizione». Philippe afferrò il bagaglio e scese in strada. «Una stanza è per me», disse, «e credo che Peter la dividerà volentieri». Il ragazzo si risvegliò dal torpore e affiancò il gran diavolo. A Joseph non rimase che seguirli. Jérôme si affrettò a trasferire le borse da viaggio. Prima di risalire a cassetta si assicurò che i passeggeri fossero comodi. «Signori, se permettete, anche se c'è nebbia, sciolgo la briglia a queste bestiacce. Le strade di Londra non sono tutte ben illuminate ed è rischioso dopo l'imbrunire». I due indiani non dissero nulla. Joseph si limitò a un cenno del capo. Quando le ruote presero a muoversi, Philippe guardò fuori. Gli sembrava risentire ancora il cigolio, sempre più debole e lontano.